Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Franco Bernabè, trentino di Vipiteno, 66 anni, sposato con due figli, laurea a Torino, collaboratore di Franco Reviglio, lavora prima all'Ocse e poi alla Fiat, all'Eni dall'82 e amministratore delegato dal 92 al 98. Nei suoi due mandati ristruttura e privatizza il colosso del petrolio. Dal 98 amministratore delegato di Telecom, nel 99 tenta di resistere all'OPA di Colaninno, perde e si dimette. Torna nel 2007 e nel 2013 si dimette da presidente esecutivo. È uno dei manager italiani più conosciuti e stimati nel mondo. È stato anche socio di Rothschild e presidente del Mar di Rovereto, delle scuderie del Quirinale. Fa parte del gruppo del Bilderberg, sulle cui riunioni e potere si favoleggia molto. Allora, dottor Bernabè, si favoleggia a proposito o a sproposito? A sproposito totalmente. Perché? Ma perché sono delle riunioni private che seguono i criteri della Chatham House, cioè quindi si può discutere, però non viene discusso all'esterno quello che si è discusso. Senta, ma sono riunioni così che producono dei pensieri poi egemoni nel tempo? Ma assolutamente no, perché ci sono tantissime persone di diversa estrazione che cambiano tutti gli anni. Senta, ma perché allora tant'aria di mistero, di segreto intorno a voi? Ah, perché tutti quanti hanno bisogno che ci siano dei drammi e delle cose segrete sulle quali imbastire delle storie. Senta, dottor Bernabè, qualcuno dice che però le privatizzazioni in Italia siano nate in contesti come questo, è vero o falso? Ma assolutamente falso, sono nate perché l'Italia aveva bisogno di ridimensionare e razionalizzare il suo settore pubblico. Senta, comunque Romano Prodi, che le ha promosse in gran parte, nel suo libro Missione Incompiuta le considera più o meno un fallimento. Ho ragione o torto? Beh, io direi che ha torto, perché ci sono state delle privatizzazioni che sono state un fallimento e altre che invece sono state molto positive. Beh, sostanzialmente Prodi dice che invece di aprire al mercato spesso sono state spolpate le aziende, rivendute intere o a pezzi. Lei c'era, è andata così? Beh, guardi, non è andata così in tutti i casi, anzi in moltissimi casi è andata molto diversamente. La privatizzazione del Nuovo Pignone che ho fatto io ha creato un leader mondiale nel settore dell'ingegneria dell'olio e del gas, che ha dato migliaia di posti di lavoro in Toscana. Ma qualcosa di sbagliato c'era nel come sono state impostate, cioè l'idea oppure la realizzazione? Ma no, guardi, non c'è stato un filone unico. Ci sono state privatizzazioni di successo e altre che non hanno avuto successo. Ma qual è quella meno successo? Ma io direi quella che ha avuto più successo è stata l'Eni e francamente vabbè, parla è quella della che conosco sua, di più perché l'ho seguita io direttamente. Senta dottor Bernabè, ma vista adesso, i cosiddetti boiardi di Stato erano davvero peggiori oppure migliori dei manager privati che sono venuti dopo? Guardi, intanto ovviamente non uso il termine boiardi di Stato, naturalmente, ma la cosa una definizione giornalistica è che il sistema delle imprese pubbliche aveva creato una scuola di management che ha dato tantissimi manager anche al settore privato, ricordo fra tutti Romiti ma tantissimi altri, era una grandissima scuola di management. Ecco, ma oggi l'intervento dell'Stato nell'economia è auspicabile oppure no? Ma direi che in queste condizioni non è auspicabile. Non è auspicabile? No. Perché? Ma guardi, perché in Italia c'è stato un depotenziamento dei meccanismi di formazione della classe dirigente e all'interno di questi certamente anche della classe dirigente manageriale, cioè la dissoluzione delle imprese a partecipazione statale e la dissoluzione... Cioè lì c'era grande scuola, ha detto. C'era infatti grande scuola, ma c'era grande scuola anche nelle grandi imprese private che purtroppo si sono sempre più ridotte di numero, quindi onestamente c'è un problema di classe dirigente ma soprattutto prima di formazione di tutto della classe dirigente. Però le infrastrutture per la nuova economia digitale le possono fare i privati o serve lo Stato? Ma guardi, le infrastrutture per la nuova economia digitale le possono fare sia i privati che lo Stato. dipende dal tipo di obiettivi che uno vuole perseguire. Se uno vuole perseguire obiettivi di ritorno economico, lo possono fare i privati. Se uno vuole perseguire obiettivi di interesse pubblico, le fa lo Stato. Sì, però lei ha detto che gli investimenti della banda larga, ultralarga, nel mondo dei servizi internet gratuiti hanno ritorni molto dilazionati nel tempo, quindi privati disposti forse è difficile trovarli. Diciamo che gli investimenti nella banda larga li ha fatti Telecom, li hanno fatti tutte le altre imprese di telecomunicazione. Gli investimenti nella banda ultralarga oggettivamente hanno dei ritorni differiti nel tempo. Senta, però perché in Francia, in Germania, in Inghilterra la telecomunicazione, le infrastrutture sono rimaste dello Stato, solo da noi no? Beh, non sono rimaste dello Stato, sono rimaste in società privatizzate ma partecipate dallo Stato. Partecipate in modo significativo, che ha dato continuità alla gestione e ha evitato i traumi che purtroppo ha subito Telecom Italia nel corso dei suoi anni. Quindi era quella la forma migliore, hanno avuto ragione loro? Beh, che è la formula che ha consentito a Leni di avere il successo che ha avuto, che ha consentito... Restando, diciamo, a maggioranza pubblica, ma con una... Restando con una partecipazione pubblica importante che ha garantito una continuità senza grandi scosse. Che ha il potere di nomina, no? Che ha il potere di nomina, ma che è gestito con grande prudenza, perché è gestito dal Tesoro... avendo riguardo agli interessi di tutti gli azionisti. Senta, ma per esempio la Telecom da sola oggi, secondo lei, può fare la banda larga senza l'Enel? Guardi, la banda larga la Telecom l'ha già fatta. Il problema è la banda ultralarga. E la banda ultralarga è una responsabilità di tutti gli operatori, non solo di Telecom. Quindi c'è bisogno di tutti? C'è bisogno che tutti quanti investano per la parte loro. Quindi, insomma, la risposta è chiara. Sì, anche l'Enel. Senta, so che lei non parla volentieri, perché non si parla volentieri di quello che si è fatto, ma con Telecom in qualche modo, visto che è stata una vita travagliata, sente di aver lasciato un'opera incompiuta un po'? Sì, però io penso anche di aver fatto tutto quello che era necessario e nel mio potere per poter migliorare la situazione, e credo di aver fatto molto, perché ho ridotto il debito, ho ridotto l'avviamento del bilancio di Telecom, e quindi quello che ho potuto fare l'ha fatto. Ma qualche rammarico per come è finita ce l'ha? Beh, certo, sarei stato contento che Telecom diventasse di nuovo il campione mondiale che era 15 anni fa. Purtroppo non c'erano le condizioni. Lo era prima delle privatizzazioni, il campione mondiale. Questo bisogna dirlo. No, per essere chiari, appunto. Non c'è dubbio. Era dello Stato. Senta, dottor Bernabé, tornando ai temi di fondo, come possono le telecomunicazioni europee competere con le over the top americane, che hanno il monopolio dei servizi internet quasi senza vincoli fiscali? Devono concentrarsi, cosa che l'Unione Europea non capisce, e dando spazio in questo modo a un predominio assoluto degli americani. Non capisce o non vuole? No, non capisce, perché è motivata... Troppo burocrati? No, perché è motivata da esigenze di tipo politico, cioè il fatto di far scendere... Di regolamentazione. Regolamentazione e il fatto di far scendere continuamente i prezzi, ma se si fanno scendere i prezzi non ci sono le risorse per investire. Senta, però sul piano fiscale l'Europa adesso incomincia a reagire. Con grande ritardo. Con grande ritardo. Con grande ritardo. Ma nella direzione giusta o no? Ma nella direzione giusta, però il problema vero è che le società europee che investono, pagano le tasse e assumono, si confrontano con delle società che sono dei giganti che non investono, non pagano le tasse o ne pagano pochissime e non hanno dipendenti. Infatti è quello che lei ha scritto nel suo libro. In realtà le over the top sembravano solo infrastrutture, invece sono anche editori. Senta cosa dicono due avversari storici fra loro, come Confalonieri e De Benedetti. Come industria dei contenuti nel suo complesso, non abbiamo capito che la tecnologia sarebbe stata sfruttata da questi signori che si presentavano come dei tecnologi per un'operazione puramente commerciale. Non abbiamo proprio capito che loro ci vendevano l'algoritmo, in realtà si fottevano la pubblicità. Noi nel 2006 abbiamo cominciato a prendere le distanze, ad attaccare Google, YouTube, a fare delle diffide. Nel 2008 abbiamo fatto una causa. Ma perché? Non solo per un fatto fiscale, però quello che chiedo è che questi signori, questi over the top, abbiano lo stesso regime nostro. Insomma, è chiaro, no? Hanno ragione. Assolutamente. L'Europa o va lì o morte. Sì, l'Europa non ha chance se continua a favorire tra l'altro oggettivamente le società americane contro le società europee. E quindi la web tax, al di là del fatto del nome che è brutto, perché non è una tassa sul web, è sacrosanta. Assolutamente. Senta, oggi la convergenza tra le telecomunicazioni e le società di contenuti è un dato di fatto oramai, no? Esatto. L'abbiamo visto, ecco. Ma con le autostrade digitali che si espandono, allora chi produce contenuti e diritti vince. Ma guardi, infatti il successo della banda ultralarga è soprattutto degli operatori via cavo che sono partiti dai contenuti e per i quali l'infrastruttura è solamente un mezzo per distribuire i contenuti. Senta, ma perché le società di telecomunicazioni non sono state capaci? Perché non è il loro mestiere. Il loro mestiere è di fare infrastrutture, non di fare contenuti. Che rendono poco però le infrastrutture nel tempo. E dipende, perché dipende dalla regolamentazione, perché sono società fortemente regolate, mentre chi produce le piattaforme tecnologiche non è regolato affatto. E quindi c'è una competizione ineguale. Siamo sempre lì, i prezzi possono essere bassissimi, WhatsApp, eccetera. Esatto. Ecco, ma l'arrivo di Bolloré, per esempio, in Telecom, con grandi disponibilità finanziarie, così sembra, e rapporti privilegiati, per esempio con Mediaset, possono rivoltare il sistema delle alleanze in Italia nel settore della convergenza? Guardi, Bolloré è una persona che in Italia si è sempre mossa con grande prudenza e con grande saggezza, rispettando le società nelle quali investiva. Quindi io sono convinto che l'arrivo di Bolloré, che peraltro ha una piccola partecipazione in Telecom, sarà coerente con quello che è stato il comportamento di Bolloré. Ma prevede alleanze nuove? Guardi, io credo che Bolloré debba ancora farsi l'idea di che cosa fare. Senta, Telecom per esempio aveva la 7, che in mano un editore puro, però adesso non perde più. Non era meglio tenerla? Ma no, ma non in era questa logica di integrazione. Non era il mestiere di Telecom. Non era il mestiere di Telecom. Senta, perché non potevate impararlo? No. Ah no, guardi, una società c'ha una sua competenza, un suo c'ha sentimento proprio, anima, esattamente, e l'anima di Telecom è un'anima infrastrutturale, non è un'anima di contenuti. Senta, dottor Bernabé, in questo grande cambio di scenari comunque che sta realizzandosi nel sistema complessivo delle telecomunicazioni e dell'integrazione, si è parlato di lei come del nuovo numero uno della RAI, cioè dalla rete ai contenuti. È fantapolitica. Ma guardi, io credo che la RAI abbia bisogno di persone competenti. Io non mi sono mai occupato di contenuti, quindi penso che di essere la persona più inadatta a occuparmi di una cosa di questo genere. E quindi non le interesserebbe? Ma assolutamente. Io credo che non ci siano manager per tutte le stagioni. Ci sono manager che conoscono un mestiere e quindi che vanno bene a gestire una società. Altri che conoscono altri mestieri. Io ne fa contenuti altro, non fa ho mai finanza. Tanti. Senta, dottor Bernabé, intanto in questi anni lei si è occupato invece molto di cultura, di musei. Qual è stata la soddisfazione più grande in questo mondo? Beh, la soddisfazione più grande è stata, assieme alla direttrice Gabriella Belli, di aver fatto di un museo che era in una zona periferica d'Italia uno dei più importanti musei a livello internazionale nell'arte moderna e contemporanea, il MART di Rovereto. Certo, ma è vero che con l'arte e la cultura non si mangia, come dice Tremonti? Ma guardi, l'arte e la cultura sono cose estremamente delicate e importanti, sulle quali si può costruire invece un progetto di sviluppo per il paese, che però per il momento è carente ancora. Ecco, ma se lei fosse ministro dei beni culturali cosa farebbe subito? Ma guardi, il mio mestiere non è quello di fare il politico. Vabbè, io ma credo mi dica che una cosa. Io credo che invece Franceschini lo stia facendo molto bene, perché guardi, il ministro dei beni culturali è soprattutto uno che deve avere una passione per i beni culturali e per le persone che all'interno del sistema dei beni culturali lavorano. Io ho trovato delle persone straordinarie, sovrintendenti, delle persone veramente che avevano una grandissima passione, una grandissima cultura. Ma ci sono troppi musei in Italia? Ma no, guarda, non ci sono troppi. Ma lei in un direttore di museo cosa cerca? Cerco la passione, l'amore, la competenza e anche la fantasia. E in un artista? In un artista le emozioni. Senta, dottor Bernabé, oggi il fondo che lei, si dice, ho letto, vorrebbe creare di venture capital, Stark One, in che cosa dovrebbe o vorrebbe investire prevalentemente? Ma guardi, nella modernizzazione del sistema industriale italiano attraverso le nuove tecnologie. Lei ha detto, a proposito, che chi non ha una startup è nei guai. Cosa vuol dire? Ma perché, guardi, le tecnologie riducono i posti di lavoro, inevitabilmente. Nel lungo periodo riducono fortemente i posti di lavoro, e quindi la capacità di inventare, la capacità di intraprendere diventa fondamentale. Ma e va riconosciuto il valore sociale della capacità di intraprendere, cosa che in Italia è ancora poco riconosciuto. Quindi lei pensa davvero che l'alternativa alla crisi è essere imprenditori? L'alternativa alla crisi richiederà molta dose di iniziativa imprenditoriale autonoma. Quindi imprenditori o partita IVA nel futuro, se no la fame. Beh, questo, beh, speriamo di no, insomma. Beh, però i posti di lavoro certamente si riducono, i posti di lavoro si riducono, e quindi c'è un problema molto serio sulla capacità di attivare il sistema. Cioè, moderni ma disoccupati, un trend irreversibile. No, beh, disoccupati no, perché ci sono tantissime cose che si possono fare, e c'è veramente la necessità che tutti quanti capiscano che devono trovare in se stessi la forza di lavorare, perché le grandi imprese in Italia non ci sono, lo Stato non può assumere, quindi non ci sono soluzioni. Senta, ma non è un po' troppo facile da dire a milioni di giovani senza lavoro questo come messaggio di uno che è stato purtroppo non ce ne sono altri. È difficile e va riconosciuta la difficoltà, però lo scopo della classe dirigente è quello di creare ovviamente le condizioni per riprendere a creare posti di lavoro, perché oggettivamente creati molto pochi, pochissimi, negli ultimi anni. Però anche di spiegare che il meccanismo attraverso il quale si creano i posti di lavoro è cambiato. Non è un modo moderno di dire arrangiatevi. No, direi di no. Perché la classe dirigente deve dare una visione. Senta, ma prima di arrangiarsi, a chi devono dire grazie le nuove generazioni per questo disastro comunque ricevuto, perché non è stato preparato il paese a questo cambio di marcia completo? Ma guardi, c'è stato un problema di classe dirigente in Italia, e direi che il problema della classe dirigente è un problema che ancora si sente. E da questo punto di vista direi che quello che è stato fatto da Renzi, diciamo, in termini di cambiamento va nella direzione giusta. Ecco, l'avvocato Agnelli un giorno in un'intervista mi ha detto: la classe dirigente del paese è peggio del paese. Lei lo pensa o no? Ma guardi, non si possono, non si può generalizzare. No. C'è stata classe dirigente buona e classe dirigente cattiva. Senta, adesso lei dice che per uscire dalla crisi ci vorranno 10 anni e nuovi leader. Perché 10 anni? Ma perché i problemi strutturali del paese sono molto molto profondi e difficili da risolvere, quindi ci va un piano di lunghissimo periodo. Beh, Renzi, allora per lei è un nuovo leader per uscire dalla crisi? Sì, Renzi è un nuovo leader che ha bisogno di avere un supporto di una classe dirigente intorno che si deve ancora formare. Mi manca la squadra ancora. Deve formare una classe dirigente intorno a lui. Negli ambienti internazionali che lei frequenta, come ha visto Renzi? Ma guardi, parlavo l'altro ieri con Martin Wolf, l'editorialista del Financial Times, che era entusiasta di Renzi. Ah. Quindi il suo consenso cresce? Ma direi che all'inizio era visto con grande, diciamo, sospetto. Dopodiché il suo rapporto con la classe dirigente internazionale è molto migliorato. Adesso ovviamente lo attendono prove molto difficili. Ma Renzi ci racconta un paese che non c'è o un paese che non c'è ancora? Beh, io direi più un paese che non c'è ancora, ma verso il quale dobbiamo andare. Quindi, diciamo, a lei le piace Renzi? Ma direi che Renzi ha le idee giuste. Senta, certamente deve dotarsi di manca la squadra, l'ho detto, squadra l'ha già detto, che riesca a realizzarle. Faccio tutto da solo, non è più possibile. No, assolutamente. Ecco. Dottor Bernabé, intanto uno dei business più interessanti dell'economia digitale è quella della gestione dei dati, cioè? Ma guardi, vengono generati tantissimi dati perché noi siamo costantemente connessi sia coi telefoni, col computer, e progressivamente sempre di più saremo connessi. Tutta questa capacità di generazione di quindi dati siamo comprati e venduti continuamente. Esatto, purtroppo con dei problemi di privacy che abbiamo visto. E infatti lei nel suo libro Libertà vigilata, privacy, mercato nella rete parla molto della difficoltà di trovare un equilibrio tra libertà della rete e diritto alla privacy. Ma qual è secondo lei il punto d'equilibrio? Ma guardi, il punto d'equilibrio va ricercato regolando il sistema di internet così come sono regolate le telecomunicazioni, perché la possibilità per imprese private di utilizzare dati che sono estremamente granulari nei confronti della vita, del comportamento di ciascuno di noi, non può essere lasciato alla totale disponibilità di società che non sono controllate. Quindi un mito quello della libertà della rete assoluta, non conviene a nessuno. No, ma la libertà della rete assoluta è una libertà per quelli che utilizzano i dati che la rete genera, non per chi la rete utilizza. Naturalmente. Senta, ma di fronte agli hacker, ai virus, ai pirati informatici, come ci si difende? Ci si difende utilizzando la rete con prudenza e con attenzione. Ma un po' di più? Ah, guardi, tecnologie sono estremamente invasive e intrusive, e quindi la capacità di difesa richiede un costante aggiornamento dei sistemi. Lei pensi che c'è... È anche culturale di chi usa, no? È anche culturale di chi usa, certamente. No, stava dicendo... Stavo dicendo che le più grandi società di antivirus sono... Alcune delle più grandi società di antivirus sono società russe. Ecco, uno deve evidentemente pensare che appartengono a un sistema che è diverso dal nostro e che quindi, diciamo, hanno degli obiettivi e degli interessi diversi da quelli che potrebbe avere, per esempio, russe, una società. Le società più forti degli antivirus. Alcune, ce ne sono alcune russe, altre sono cinesi. Quindi evidentemente è all'interno anche di un rapporto... Cambia il mondo dello spionaggio. Di un rapporto anche, globale, di un rapporto di interessi geopolitici globali. Senta, è vero che lei è socio con Marco Carrai, l'amico di Renzi, e con Luigi Berlusconi in una società che si occupa della gestione, appunto, dei magari dati personali? Magari sarei molto più giovane. Guardi, no. Il fatto è che sono mio figlio è giovane ed è amico di Carrai da tantissimi anni, e con Carrai ha fatto parecchie cose. Quindi magari sarei molto più giovane di quello che sono. Senta, dottor Bernabé, per finire, mi dice quali sono i punti di eccellenza e di forza sui quali l'Italia nei prossimi 10 anni in realtà può contare per ripartire, per superare la crisi? Ma guardi, l'Italia, il punto di eccellenza d'Italia è la capacità di fare impresa che dimostrano i milioni di imprenditori italiani. Perché questa capacità di fare impresa si attivi, bisogna che ci sia una leadership che dà una visione del futuro e che ricarica e che dà entusiasmo alla gente. Purtroppo l'Italia è vissuta piangendo su se stessa per tantissimi anni. Questo è basta una... piangere. Basta, perché l'Italia ha bisogno di riprendersi, e per riprendersi bisogna avere entusiasmo. Grazie, grazie dottor Bernabé. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS e pubblicità. Mix 24. Per niente al mondo io ti lascerei. Sì. Sono cose che si dicono. Tu sei la donna della vita mia. Che affermazione categorica. Sarebbe meglio lasciar perdere, o almeno far finta di crederci. Ma ogni volta si ripetono, perché sono cose che si dicono. E poi la vita in un attimo cancella tutto ed è implacabile. Pietrangelo! Come una scopa. Pietrangelo! Buongiorno! Mi senti? Sì, mi sento. Dove sei oggi nel tuo tour? Oggi sono alla Lamezia Terme. Ma sempre a presentare il libro, no? E anche a fare lo spettacolo Buttanissima Sicilia. Appunto, il libro e lo spettacolo, che bello. Bene, bene, com'è andato? È andato. Prima c'è stata la presentazione del Feroce Saracino nella libreria storica di Gioacchino Tavella, e poi a teatro Buttanissima Sicilia. Una festa. E l'hanno capito? E certo, siamo in Calabria. Ah, vabbè, Calabria, sì, cioè, è vero, è vero. Senti, e questa canzone come me la racconti? È perché mi sono svegliato qui stamattina, uscendo dall'albergo, ho attraversato uno slargo colmo di piante rigogliose e fiori da colori meravigliosi. La prima luce è quella dei profumi carichi della notte, e le facce che si incontrano sono sempre quelle più ben disposte, perché svegliare presto fa masticare umori tutti belli. Però non è stato il chiacchierare con gli umani a dare senso al sole, piuttosto ascoltare tutto quel concerto di colori e di odori. E le piante, non ci crederete, parlavano tra di loro e si attardavano in una festa di balli e di cose che si dicono. È stata, per dirla con questa canzone di Giorgio Conte, la vita in un attimo, senza una scopa che passi ruvida sull'anima. ed è un sogno che non è svanito, quello dei fiori, e infatti non è la solita retorica, è la bellissima canzone Le cose che si dicono di Giorgio Conte e Ornella Vanoni. Come una scopa passa ruvida sul corpo e sull'anima. Mario. Buongiorno. Bene, bene, come va? Tutto a posto, in casa, tutto bene. Che dici? Ti è piaciuto il faccia a faccia con Bernabé? Sì, uomo sì, interessante. Sì. Power, power, potente, potente. Sì, sì, sul serio. Senti, e nelle tue bolle? Che cosa ci racconti? L'Europa, un sacco di America. Ah. Ricordi, Mamma mia. Vai, vai, falla andare, che non la sentiamo più da un sacco di tempo. Vabbè, insomma, l'Eurovisione. Volevo sentirla, perché che succede? Succede che oggi si riunisce l'Eurogruppo, al primo punto dell'agenda, cioè come recita l'agenda di State of Play, che sembra un gioco, ma non lo è, con la Grecia. Non ci sarà ovviamente nessun accordo oggi, almeno che non succeda un miracolo. Atene non accetta le condizioni di Bruxelles e Bruxelles non accetta le condizioni di Atene. Quando questa storia sarà finita, in ogni modo, noi cercheremo di trarre le conseguenze, cioè di elencare le colpe dei creditori e dei debitori. Al secondo punto dell'agenda brussellese, molto interessante da leggere, c'è il Portogallo con il suo programma di aiuti, che finora ha ripagato fino al 75%, se non sbaglio. Al terzo punto c'è Cipro con un programma di riforme economiche dopo aver avuto un leggero crack bancario. Beh, per fortuna che siamo in cima all'agenda noi. Sì. Infine c'è un giro d'orizzonte con il Fondo Monetario Internazionale, che fa il punto sull'economia dell'Eurozona, e poi l'agenda per i prossimi sei mesi. Come vedi, di lavoro da fare ce n'è. Il problema resta se la situazione greca trova una soluzione pacifica oppure si va verso... Ma quanto può durare questa telenovela ancora? Ma in teoria fino al 30 giugno, cioè il 30 giugno c'è una scadenza chiave, che è quella della rata del Fondo Monetario Internazionale, sì, 1,6 miliardi, e lì si capisce, ma secondo me si capirà prima, la prossima settimana tireranno le fila di tutto. C'è una cosa importante segnalata oggi da Paul Donovan sulla newsletter di UBS, che io leggo tutti i giorni, interessante, e che sta facendo una cosa, che è la crisi greco-tedesca in 45 secondi. All'ultimo punto però c'è il fatto che la BCE ha esteso liquidità alle banche greche, che quindi è la cosa che conta di più, quindi c'è una volontà. Cioè, diciamo, il politico unico in Europa alla fine Draghi. Esatto. Draghi Merkel, perché secondo me sono d'accordo. Beh sì, secondo me. Salamino! C'è la legge del taglione e c'è il taglione della legge. Oggi il sole di Campania bacerà il nuovo presidente della regione. Verrà proclamato senza indugi Vincenzo De Luca. Sarà dunque presidente e chi si è visto si è visto. Ma nella legge del taglione c'è il taglione della legge. Il centrodestra ingaggia un grande professionista, l'avvocato molisano Salvatore Di Pardo, e a questi affida l'incarico per trovare gli argomenti e i garbugli giusti per diffidare Vincenzo De Luca e applicare quindi senza indugi la legge Severino. Ma chi è Di Pardo? Chiedetemelo, me lo chiedete? E chi è? E chi è? Chi è Di Pardo? Ecco, ve lo dico, me l'avete chiesto? Sì. Chi è? Chi è? Chi è? È illegale. Il superbo, magnifico, stimato, illustre, esperto di inarrivabile esperienza, ed è quello che ha chiesto e ottenuto l'applicazione della Severino nei confronti di un altro protagonista della scena politica. Voi mi chiederete chi è? Me l'avete chiesto? Ah sì, certo, chi è? Chi è? Yeah. Avete chiesto? È Silvio Berlusconi! No. Sì, Di Pardo ha già consegnato agli inchiostri e ai torchi la sua richiesta. Immediato accertamento della sospensione, immediata nomina di un commissario ad acta, alea iacta est, si potrebbe dire, se non fosse un continuar tagliar di pizzi e di paglietta. Mamma mia. Si pulisce bene, veramente, non mi faresti sfruguria da gente, non mi tagliassi pizzi da paglietta, non mi metti sa cruschin da giacchetta. Maurizio, Maurizio, con fare imperioso, mi dice, yeah. Minoli, legga questo sms, lo leggo, sì, e lui dice, su via dottore, l'Italia non cambia e non cambierà mai. Beh, vabbè, insomma, l'ho letto, Maurizio, anche perché si scrivono questi sms, non cambia, non cambierà mai. Certo. E intanto... Com'è cambiata tanto? Penso anch'io, ma comunque io l'ho letto, ho seguito l'ordine. Sara, Sara Tardelli. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Si fa prima tra donne a ristabilire l'equilibrio. Tra rossetto e cioccolato, Agnese Renzi ieri, nella sua visita ufficiale a Expo, ha dimostrato di saper far politica. E come? Infatti, dopo che il ministro dell'ambiente francese Ségolène Royal ha dichiarato che la Nutella, guarda caso un prodotto italiano, era la responsabile della deforestazione per l'olio di palma, e beh, la posizione di Renzi iniziava ad essere un po' imbarazzante. E invece, mentre la nostra First Lady sorrideva davanti a un barattolone di Nutella, Ségolène twittava le sue scuse. Matteo, io riporterei Agnese a Palazzo Chigi. Micidiale, bellissimo. Micidiale, non si porta. Io non mi fido mai della Tardini, lo so. Non si sa mai dove va a finire. No, no, io mai parte con dolce, lei, arriva sempre durissima. Mai con lei alle spalle. Che potrebbe succedere? Mi sembra. Attenti un po', mi fulmina. Canzoniere. Strade lunghe e diritte, case piccole pitturate di rosso, di giallo e blu oltremare, sperdute in mezzo ai filari di viti. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblici. X 24. Vabbè. Ho accontentato la Tardelli, perché questa piace a Sara, facciamola sentire ancora un po'. Hold back the river. Questa canzone è un crescendo, è come lei, no? Comincia così, dolcemente, suovemente, poi te travolge. E vabbè, cari ascoltatori, che succede dall'altra parte del fiume, in questo caso è un vasto oceano, cioè in America? C'è stata la riunione della Federal Reserve, due giorni di meeting, come si dice, e secondo me molto importante, anche per gli analisti che ne sanno più di me ovviamente, per almeno un paio di motivi. Proviamo a ridurli in due pillole con Tanto la banca centrale ha rivisto la crescita degli Stati Uniti per il 2015 al ribasso. E quindi anche l'America cresce meno. Un po' meno, sì. Oscillerà tra l'1.8 e il 2%, inferiore alle proiezioni che la davano tra il 2.3 e il 2.7. Questo significa un po' di conseguenze per la crescita globale. Significa sempre che le previsioni sono sempre sbagliate. Non si può azzeccare tutto. Non si azzecca mai, ma comunque andiamo avanti. Sei proprio contro gli economisti. Sì, contro. Non ci prendono mai. Lo so. Poi ti racconto una barzelletta di Greenspan su Biesner. Forse è meglio l'oroscopo, vai. Allora, e poi l'aumento dei tassi non sarà nel 2016, o perlomeno non tutto, nel senso che ci sarà un avvicinamento graduale a questa scadenza e sarà in due tempi, il primo a settembre e l'altro subito dopo un po' di mesi. Anche se, siccome lì fanno le cose per bene, sì, sotto questo punto di vista, c'è uno schema che fa vedere come sono divise le opinioni nel consiglio, nel board, sì. E c'era un numero di componenti abbastanza alto che chiedeva un aumento solo nell'anno in corso. Vabbè, questo ha tutta una serie di conseguenze. Ce ne faremo nostra, una ragione, poi parleremo delle conseguanze un giorno o l'altro. Giovanni da Verona ci scrive che non gli piace quello che Buttafuoco dice di Renzi. A me scrivono che non gli piace per la ragione opposta a quello che io dico di Renzi. A te dicono che quello che tu dici di Renzi è un po' sì, un po' no. Ma forse forse rappresentiamo veramente tutte le opinioni. Siamo mi liberi. Fa piacere, Giovanni da Verona, stai tranquillo. No, posso raccontarti una barzelletta sugli economisti? Sì. Veloce. Allora, a un certo punto, parata dell'Armata Rossa, sfilano i missili, le testate nucleari, eccetera, e poi una banda di straccioni alla fine del corteo. Allora uno va da Brezhnev e gli dice: compagno Brezhnev, scusami, si sono intrufolati nel corteo questi. E Brezhnev gli dice: tranquillo, li ho messi io. E dice a Reagan: sono gli economisti, la nostra arma di distruzione di massa. Vedi, io come Brezhnev, Salamino. Inizia il Ramadan e a partire da questa notte tutte le altre notti della luna nuova dovranno essere respirate fino alla notte del destino, perché in essa, come per la perla celata nella conchiglia, splende lo sforzo per arrivare all'amato. Stanotte arriva uno stelo cui aggrapparsi, un granello su cui appoggiarsi, ed è parte di un'infinità di granelli che fanno la distesa di sabbie, e in questo granello o in questo stelo, celandosi, rifulge la misericordia, e quel poco che siamo noi se ne vola via, volatile come una particola, tra gli azzurri del cielo, fino a farlo tossire per espettorare tempeste di moniti e infine fargli sputare i datteri, quelli che serviranno a spezzare il digiuno nel mese santo del Ramadan. E la notte del destino è migliore di mille mesi, perché è pace fino a levarsi dell'alba, e dunque viene ricamata la glossa che Ivan Illich sulla pagina del suo Corano volle mettere: Bisma di Ramahi Rahim. Questa formula Rahim significa il misericordioso, il compassionevole, ma letteralmente quel termine indica l'utero o, per essere ancora più precisi, i particolari movimenti dell'utero quando è infiammato d'amore. Ramadan Karim. Mario, c'è ancora una bolla, una bolletta? Bollettina. C'è il Vale che balla in regia. Comunque questo è un remix di Uptown Funk, che è un grosso successo di adesso. Allora solo per dirvi questo, balleremo sulla piadina dell'economia, ma in realtà, Giovanni, io sto attendendo di leggere con un po' di interesse la relazione dell'antitrust che ci sarà oggi, perché dopo 20 anni di governi di sinistra, di centrosinistra, di destra, di centrodestra, di Berlusconi, di Prodi e così via, voglio vedere a che punto è la liberalizzazione dei mercati e soprattutto l'apertura alla concorrenza. Bene. Voglio vedere che cosa è successo, possibilmente, e soprattutto che cosa deve succedere. E domani ne parleremo naturalmente. Marina Milone, dopo il giornale Raggio. Sì, Raggio. Dopo il giornale Raggio. Il giornale Raggio è nuovo. È nuovo. Vabbè, sì, nuovo Giovanni, dopo il giornale Raggio, dopo che, il giornale cosa, che storia ci racconti? Chiamo Ernesto Che Guevara, l'uomo che ha combattuto con Fidel Castro, poi ha tentato di esportare nel mondo la rivoluzione cubana. Raccontiamo soprattutto gli ultimi giorni di guerriglia in Bolivia, poco prima di morire, quando poi è nata la leggenda, il mito del Che. Ne parliamo con Marco Rizzo, giovane giornalista e autore di Storia Segreta del Che. Bene, dopo il giornale Radio, Che Guevara. Che va bene dopo Bernabé, mi pare. Beh, no? Sempre, per la, Guevara, sempre per la storia, per no? Essere che siamo completi, diversi. Che siamo diversi e siamo completi. Per chi avesse perso la puntata, può ascoltarci in replica come tutte le sere alle 23. E per finire, Angelo di Francesco Renga.